Mrs. Moss era sola sulla soglia del vecchio porticato. Con delicata discrezione aveva mandato in casa tutti i bambini. Sarebbe stato tanto piacevole che Maggie avesse avuto un corteggiatore ricco e bello, ma naturalmente al momento di rientrare ella si sarebbe sentita imbarazzata e questo poteva essere meno piacevole. In ogni caso, Mrs. Moss attendeva ansiosamente Maggie e voleva riceverla da sola. L'espressione del volto le disse abbastanza chiaro che se gioia c'era era ad una specie molto agitata e dubbiosa. Siediti qui un momento, cara. Attirò Maggie sotto il portico e si sedette accanto a lei sulla panca. In casa non c'erano stanze appartate. Oh, zia Gritty, sono tanto disgraziata. Vorrei essere morta quando avevo 15 anni. Allora mi pareva così facile rinunziare ed ora è così difficile. La povera figliola buttò le braccia al collo della zia e scoppiò in lunghi e profondi singhiozzi. 12. Una riunione di famiglia. Maggie lasciò la buona zia Gritty alla fine della settimana e, secondo le intese, andò ai pini di Garum in visita da zia Pallet. Nel frattempo erano accadute cose molto inaspettate e a Garum si doveva tenere una riunione di famiglia per discutere e festeggiare un cambiamento nella fortuna dei Tulliver che finalmente avrebbero spazzato via l'ombra dei loro demeriti, quasi l'ultimo lembo di un'eclissi, e fatto brillare in pieno splendore le virtù fino allora oscurate. È piacevole di sapere che non sono solo i nuovi ministri appena entrati in carica a beneficiare di un periodo di alta stima e di lodi prodigate a piene mani. Lucy giunse così presto da precedere perfino l'arrivo di zia Glegg, perché desiderava di parlare con Maggie delle meravigliose novità senza essere disturbata. Pareva, sì o no, diceva Lucy con la più graziosa aria di saggezza, che tutto ormai, perfino le altrui disgrazie, povera gente, cospirasse a rendere felici, come se lo meritavano dopo tutti i loro guai, la povera cara zia Tulliver e il cugino Tom e anche la fiera Maggie, se non fosse stata così ostinatamente proclive al contrario. Pensare che proprio nello stesso giorno in cui Tom era tornato da Newcastle, quello sfortunato giovane Jetsam, che Mr. Wakem aveva impiegato al mulino, era caduto da cavallo in un accesso di ubriachezza ed era stato ricoverato a St. Oaks in così pericolose condizioni che Wakem aveva manifestato il desiderio che i nuovi acquirenti entrassero subito nella proprietà. Una cosa davvero tremenda per quel disgraziato giovanotto, ma pareva proprio che la disgrazia gli fosse successa allora, piuttosto che in un altro momento, affinché il cugino Tom potesse ottenere al più presto la degna ricompensa della sua condotta esemplare. Papà lo teneva in così alto concetto. Adesso Mrs. Tulliver doveva senz'altro trasferirsi al mulino a dirigere la casa di Tom. Per quel che riguardava il buon andamento domestico, Lucy si faceva una vera perdita. E tuttavia, pensare che la povera zietta tornava nella sua vecchia casa e vi avrebbe ritrovato a poco le proprie comodità, ah! Su questo punto Lucy aveva certi suoi astuti progetti e una volta che ebbe effettuata con Maggie, giù per le scale troppo incerate, la pericolosa discesa fino al grazioso salotto, dove perfino i raggi del sole parevano più tersi che altrove, diresse le proprie manovre, come qualunque grande tattico, contro il lato più debole del nemico. Zia Pallet disse sedendosi sul divano e aggiustando con cura i volubili nastri del cappello di questa signora: «Vorrei che decideste quale biancheria e quali suppelletti li darete a Tom per la sua casa, perché voi siete sempre così generosa, regalate delle cose così belle, sapete, e se date voi il buon esempio, zia Glegg lo seguirà». «Oh, questo non potrà mai farlo, cara», disse Mrs. Pallet con insolita energia, «perché biancheria da stare a confronto con la mia non ne possiede, te lo dico io. Le è sempre mancato il gusto, se anche ha avuto dei quattrini da spendere. Nient'altro che grandi scacchi e disegni di animali, come cervi e volpi, in tutta la sua biancheria da tavola. Nemmeno un capo a puntini o a diamanti. Ma è ben triste di staccarsi dalla propria biancheria prima di morire». «Non avrei mai pensato di doverlo fare, Bessie», continuò Mrs. Pallet, scuotendo il capo e guardando la sorella Tulliver. «Quando tu e io abbiamo scelto quel doppio diamante, il primo lino che abbiamo filato, e sai Dio dove è andato a finire il tuo». «Ah, non avevo altra scelta, questo è sicuro, sorella», disse la povera Mrs. Tulliver, abituata a considerarsi come una persona accusata. So ben io che non era quello il mio desiderio, in ogni caso, e così mi tocca di passare le mie notti sveglia a pensare alla mia bella biancheria di tela imbiancata, dispersa per tutto il paese. Prendete una pastiglia di menta, Mrs. Tulliver, disse zio Pallet, sentendo di offrire una consolazione sana e a buon mercato che gli raccomandava col proprio esempio. Oh, ma zia Pallet, disse Lucy, voi avete tanta bella biancheria, supponete che aveste avuto delle figlie, vi sarebbe pur toccato di dividerla quando si sposavano. Ebbene, non dico che io non voglia farlo, disse Mrs. Pallet. Adesso che Tom ha tanta fortuna, è più che giusto che i suoi parenti lo tengano in considerazione e lo aiutino. Ci sono le tovaglie da tavola che ho comperato alla tua asta, Bessie. È stato per pura bontà che le ho comperate, perché sono poi sempre rimaste nell'armadio. Però a Maggie, della mia mussolina d'India o altre cose, non gliene darò più, se vuole tornare a servizio, quando potrebbe restare qui a tenermi compagnia e a cucire per me, se non ci fosse bisogno di lei in casa di suo fratello. Andare a servizio era l'espressione con cui lo spirito Dodson si rappresentava la condizione di maestra o di governante. E il ritorno di Maggie a tale situazione servile, ora che le circostanze le offrivano più convenienti prospettive, doveva essere un punto doloroso per tutti i suoi parenti, Lucy compresa. Maggie, nella sua forma acerba, con i capelli arrovesciati all'indietro e in uno stato tutti insieme poco promettente, era la meno desiderabile delle nipoti. Ma adesso era capace di riuscire decorativa, a un tempo, e utile. L'argomento fu ripreso alla presenza di zia e zio Glegg tra il tè e le tartine col burro. «Ah!» disse Mr. Glegg, dando dei benevoli colpetti sul dorso di Maggie. «Assurdo, assurdo! Non stare a parlarcene di tornare ad un impiego, Maggie. Come? Se alla vendita di beneficenza ti sarai conquistato una mezza dozzina di spasimanti. Neanche uno che sia un articolo conveniente, or su via!» «Mr. Glegg!» gli disse la moglie con quell'ombra di addizionale cortesia nella propria severità che ella sempre inalberava insieme con i posticci meglio arricciati. Tu mi scuserai, ma sei troppo, troppo leggero per un uomo della tua età. Il doveroso rispetto verso le zie e verso il resto della parentela, che si mostra così buono con lei, avrebbe dovuto trattenere mia nipote dalla decisione di tornare ad andarsene senza consultarci. Questo, e non già gli spasimanti, per servirmi anch'io di una simile parola, quantunque in casa mia non si sia mai sentita. Come? E noi dunque, come ci chiamavano quando si andava a visitarle, eh? Vicino Pallet? Allora ci trovavano abbastanza dolci e spasimanti, disse Mr. Glegg, scherzosamente ammiccando, mentre Mr. Pallet a quell'allusione di dolcezza si prendeva un altro po' di zucchero. Mr. Glegg! Disse Mrs. Glegg, se vuoi diventare grossolano, fammelo sapere. Via, Jane, tuo marito vuole solo scherzare, disse Mrs. Pallet. Lascialo fare mentre ha salute e forza. C'è il povero Mr. Tilt che ha tutta la bocca storta da una parte e non potrebbe ridere nemmeno se volesse. Mi permetterò di disturbarti per la pasticceria allora, Mr. Glegg, disse Mrs. Glegg, se posso avere l'ardire di interrompere i tuoi scherzi. Quantunque poi dovrebbero essere solo gli estranei che trovano da scherzare su una nipote capace di trattare con leggerezza la sorella maggiore di sua madre, che è il capo della famiglia, di non far che delle visite alla sfuggita per tutto il tempo che sta in città e decidere poi di andarsene via senza dirmene nulla, quando ho messo fuori dei cappelli apposta perché me li guarnisca e ho diviso con tanta equità il mio denaro. Sorella, interruppe Mrs. Tulliver con inquietudine. Sono sicura che Maggie non ha mai pensato di andarsene senza essere stata un po' in casa tua, come è stata dalle altre. Non già che io desideri che se ne vada, è tutto il contrario, anzi, sono certa di non averci colpa. Le ho detto e ripetuto tante volte, mia cara, non hai alcuna ragione di andartene. Ma ci saranno ancora un 10 o 15 giorni prima di quello fissato da Maggie per la partenza. Potrà benissimo passarli a casa tua e io ci verrò quando potrò e così pure Lucy. Bessie, disse Mrs. Glegg, se tu adoperassi un po' di più il tuo cervello, capiresti che per questi ultimi pochi giorni non mi par proprio il caso di togliere le federe a letto. e di prendermi tutto questo disturbo quando la nostra casa non dista più di un quarto d'ora da quella di Mr. Dean. Potrà venire da me al mattino presto e andarsene via tardi la sera e ringraziare di essere a due passi da una buona zia, dalla quale può andare e star lì seduta con lei. Avrei ben ringraziato io quando avevo la sua età. Via, Jane, disse Mrs. Spallet, farebbe bene ai tuoi letti se qualcuno ci dormisse. C'è la camera a strisce che puzza terribilmente di muffa e lo specchio è tutto macchiato di ruggine. So io che quando m'hai portato là dentro m'è parso di morire. Oh, ecco Tom, esclamò Lucy battendo le manine. È venuto a cavallo di Sinbad, come gli avevo detto. Avevo paura che non mantenesse la sua promessa. Appena Tom entrò, Maggie si slanciò a baciarlo con vivace trasporto, perché era il loro primo incontro da quando gli si era offerta la possibilità di tornare al mulino. Poi lo prese per mano, portandolo a sedere accanto a lei. Che non ci fossero nubi tra lei e Tom rimaneva una perpetua aspirazione, la quale aveva radici più profonde di qualunque vicissitudine. Quella sera egli le sorrise con molta tenerezza e le disse: «Bene, Maggie, come sta, zia Moss?» «Avanti, avanti, signor mio», disse Mr. Glegg, tendendogli la mano. «Eh già, sei così un grand'uomo, quel che pare, che conduci le cose come vuoi. Sei arrivato a infilar la buona sorte un bel pezzo prima che noi vecchi, eh? Ma io ti auguro d'essere felice, ti auguro di essere felice. Un giorno o l'altro riavrai la piena proprietà del mulino, ci scommetterei, tu non ti fermerai a metà della salita. Ma spero terrà bene a mente che questo lo deve alla famiglia di sua madre», disse Mrs. Glegg. «Se non avesse preso da noi avrebbe fatto una magra riuscita. Fallimenti e processi e sperperi nella nostra famiglia non ce ne sono mai stati, e nemmeno morti senza testamento». «No, e nemmeno morti improvvise», disse zia Pallet. «È sempre ancora arrivato il dottore, ma Tom ha la carnagione dei Dodson, io l'ho detto subito. E non so quel che tu intenda fare, sorella Glegg, ma io voglio regalargli una tovaglia da tavola per ciascuna delle tre più grandi misure che ho, tranne che di una, e poi ancora dei lenzuoli. Quel che farò in più non lo dico, ma questo lo faccio, e se dovessi morire domani, Mr. Pallet, tu lo terrai a mente, per quanto farai certo dei pasticci con le chiavi, e non ti ricorderai mai che quella sul terzo ripiano del guardaroba di sinistra, dietro i berretti da notte coi nastri grandi, non quelli a piccole pieghe, è la chiave del cassetto della camera blu, dove si trova la chiave dell'armadio blu. Farai qualche sbaglio, e io non sarò più in stato di saperlo. Tu hai una memoria meravigliosa per le mie pillole e le mie gocce. Questo te l'ho sempre riconosciuto, ma tra le chiavi sei perduto. Questa lugubre prospettiva della confusione che sarebbe seguita alla sua morte toccava molto profondamente Mrs. Spallet. Tu vai troppo in là, Sophie, col tuo modo di guardare il prima e il poi, disse Mrs. Glegg con un tono d'alquanto disgusto per questa mania. Sei al di sotto della tua famiglia. Nessuno può dire che io non veda le cose alla lunga, ma faccio quel che è ragionevole e niente di più. E quanto alla biancheria, vedrò quel che può essere utile e ne farò un regalo a mio nipote. Ho dei capi che non sono mai andati in bucato, preferibili alla bella tela d'Olanda d'altra gente, e spero che dormendoci dentro penserà a sua zia. Tom ringraziò Mrs. Glegg, ma evitò ogni promessa di meditar durante la notte sulle virtù di lei, e Mr. Glegg si incaricò di cambiare discorso, domandando a Mr. Dean le sue opinioni sul vapore. Lucy aveva avuto i suoi scopi lungimiranti nel pregare Tom di venire con Sinbad. Quando fu tempo di tornare a casa, risultò che il domestico doveva ricondurre il cavallo, mentre il cugino Tom avrebbe riaccompagnato in carrozza sua madre e Lucy. «Voi dovete starvene da sola, zietta», disse l'insinuante signorina, «perché io debbo sedermi accanto a Tom. Ho un sacco di cose da dirgli». Nell'ardore della sua affettuosa trepidanza per Maggie, Lucy non poteva persuadersi a rinviare una conversazione su di lei con Tom, che doveva essersi fatto più pieghevole e condiscendente. Ella pensava, ora che lo colmava una gioia così grande come questo rapido adempimento dei suoi desideri circa il mulino. Un temperamento come il suo non le poteva fornire una chiave per comprendere Tom. Perciò fu tanto stupita quanto appenata nell'accorgersi dello spiacevole cambiamento del contegno di lui, allorché gli ebbe raccontato come Philip si era valso della propria influenza sul padre. Su questa rivelazione l'aveva contato come su un grande colpo di stato, che doveva immediatamente ricondurre verso Philip il cuore di Tom, e dimostrare inoltre che il vecchio Wakem era pronto a ricevere Maggie come nuora con tutti gli onori. Tutto dunque era a posto. Bastava che il caro Tom, il quale aveva sempre quel piacevole sorriso allorquando guardava la cugina Lucy, facesse un completo dietrofront, dicesse l'opposto di quello che aveva sempre detto fino ad allora e dichiarasse per parte sua di essere felice che tutte le vecchie animosità fossero placate e che Maggie potesse sposare Philip al più presto. Nulla di più facile, secondo la cugina Lucy. Ma nei caratteri fortemente improntati dalle qualità positive e negative che formano la severità, forza di volere, consapevole, dirittura di propositi, limitatezza di immaginazione e di intelletto, grande dominio su se stessi e disposizione a esercitare una supremazia sopra gli altri, i pregiudizi costituiscono il naturale nutrimento delle tendenze che non trovano di che sostenersi in quel sapere complesso, frammentario, dubitoso che chiamiamo la verità. Che un pregiudizio sia trasmesso per eredità o respirato nell'aria, o adottato per tradizione o raccolto con gli occhi, comunque possa essere venuto, quegli spiriti gli daranno ospitalità. Esso è qualcosa che si può affermare con energia e coraggio. Lo spirito del nostro bravo e leale Tom Tulliver apparteneva a questa categoria. La sua intima critica degli errori paterni non gli impediva di adottare i pregiudizi paterni. Erano pregiudizi contro gli uomini di principi deboli e di condotta rilassata, e costituivano il punto d'incrocio di tutti i delusi sentimenti familiari e dell'orgoglio personale. Altri sentimenti aggiungevano il loro peso per indurre in Tom un'amara ripugnanza contro Filipe, contro il matrimonio di Maggie con lui. E così Lucy, nonostante il suo ascendente sul volitivo cugino, non poté ottenere altro che un freddo rifiuto a un qualunque riconoscimento di un simile matrimonio. Ma naturalmente Maggie poteva fare quel che le pareva, aveva ben dichiarato la sua decisione di essere libera. Per parte sua, Tom si riteneva legato dai suoi doveri verso la memoria del padre e da tutti i suoi sentimenti di uomo a non acconsentire giammai ad una parentela coi Wakem. Così, tutto quello che Lucy ottenne col suo zelante intervento fu di montar la testa a Tom, il quale ormai s'aspettava che la perversa risoluzione di tornare ad un impiego si sarebbe trasformata, come del resto tutte le risoluzioni di Maggie erano suscettibili di fare, in qualcosa di altrettanto perverso, quantunque del tutto differente, un matrimonio con Philip Wakem. 13. Travolti dalla corrente. In capo a men che una settimana, Maggie era di ritorno a St. Ogg's, pressappoco nella medesima posizione, in apparenza, di quando la sua visita era cominciata. Le riusciva facile di trascorrere le sue mattine lontana da Lucy senza che la cosa apparisse voluta, perché doveva fare a zia Glegg le visite promesse ed era naturale che in queste ultime settimane tenesse più del solito compagnia alla madre, dato specialmente che c'era da pensare ai preparativi per l'installazione domestica di Tom. Ma Lucy non voleva che per nessun pretesto ella rimanesse fuori alla sera. Sempre doveva tornare da casa di zia Glegg prima di pranzo. Altrimenti che cosa mi rimane di te? Diceva Lucy con una smorfietta lacrimosa a cui era impossibile resistere. E Mr. Stephen Guest aveva preso inesplicabilmente a pranzare da Mr. Dean il più spesso possibile, mentre prima soleva evitare di farlo. Da principio egli cominciava le sue giornate con la risoluzione di non pranzare là e di non andarci neppure la sera finché Maggie non fosse via. Aveva persino fatto il progetto di partire in viaggio per quel gradevole tempo di giugno. Le emicranie continuamente accusate come motivo del suo intontimento e del suo silenzio gli fornivano un pretesto abbastanza plausibile, ma il viaggio non fu intrapreso. E al quarto giorno nessuna precisa determinazione era stata adottata circa le serate. Esse erano soltanto previste come un tempo durante il quale Maggie ancora per poco sarebbe stata presente. E ancora un contatto, ancora uno sguardo potevano essere carpiti. Perché no? Tra loro due non c'era nulla da nascondere. Conoscevano, si erano confessato il loro amore e avevano rinunziato l'uno all'altra. Ora stavano per separarsi. L'onore e la coscienza li avrebbero ben presto divisi. Maggie, con quell'appello dal profondo dell'anima sua, l'aveva deciso, ma certamente potevano lanciarsi uno sguardo di desiderio al di sopra dell'abisso prima di volgersi in direzioni opposte per non guardarsi mai più, finché quella strana luce non fosse scomparsa per sempre dai loro occhi. Durante tutto questo tempo, Maggie si aggirava con una indolenza e perfino con una specie di torpidità, così contrastanti con la sua consueta, eccitata vivezza e ardore, che Lucy si sarebbe sentita spinta a cercare qualche altra causa per un simile mutamento, se non fosse stata convinta che la posizione in cui Maggie si trovava tra Philip e suo fratello e la prospettiva di quel gravoso esilio che si era imposto erano ampiamente bastevoli a spiegare uno stato di grande depressione. Ma sotto quel torpore si svolgeva un feroce conflitto di emozioni, quale Maggie, in tutta la sua vita di lotte, non aveva mai conosciuto o presagito. Le pareva che quanto c'era in lei di peggiore si fosse tenuto fino allora in agguato e d'improvviso balzasse fuori tutto in armi con una forza spaventosa e prepotente. C'erano dei momenti in cui un crudele egoismo pareva impossessarsi di lei. Perché Lucy, perché Philip non soffrivano? Per tanti anni della vita ella aveva dovuto soffrire e chi mai aveva rinunciato a qualche cosa per lei? E quando, alcunché di simile a quella plenitudine di vita, amore, salute, agio, eleganza, quanto insomma la sua natura bramava, era messo alla sua portata, perché doveva rinunciarvi affinché altri ne godesse, altri che forse ne era meno bisognoso? Ma tra questo nuovo, appassionato tumulto c'erano le vecchie voci che si facevano sentire con crescente potere finché, di tanto in tanto, il tumulto pareva sedato. Nell'esistenza che la seduceva c'era poi proprio quella sognata plenitudine di vita. E allora dove se ne sarebbero andate tutte le memorie delle sue opere giovanili, tutta quella profonda pietà per l'altrui pena, cresciuta in lei per anni di tenerezza e di sacrificio, tutto il divino presagio di un qualche cosa di più alto che il semplice godimento personale, di una qualche cosa che aveva costituito la santità della vita? Illudersi di godere un'esistenza nella quale ella si assestava strozzando quella fedeltà e simpatia che erano la miglior parte dell'anima sua, era come illudersi di gioire marciando coi piedi legati. E poi, se il dolore era così duro per lei, che cos'era per gli altri? Ah, Signore, tienimi lontana dall'infliggerlo, dammi la forza di sopportarlo. Come mai aveva dovuto impegnare una lotta contro una tentazione da cui invece altra volta si sarebbe pensata al sicuro quanto da un delitto premeditato? Qual era stato il primo odioso momento in cui, divenuta consapevole di un affetto che cozzava contro la sua sincerità, la sua tenerezza, la sua gratitudine, non l'aveva respinto da sé con orrore come cosa rivoltante? E non di meno se quella strana, dolce, soggiogante influenza non si insignoriva di lei, come non doveva, se era per rimanere soltanto una sua personale sofferenza, allora la sua anima condivideva il sentimento di Steven. Potevano ancora rubare qualche attimo di muta confessione avanti che venisse l'ora di separarsi. Forse che non soffriva anche lui. Quotidianamente ella se ne accorgeva da quel triste sguardo di stanchezza con cui, non appena gli veniva meno l'obbligo di controllarsi, egli ricadeva nell'indifferenza verso tutto ciò che non fosse la possibilità di contemplare lei. Poteva ella rifiutarsi di rispondere qualche volta a quel supplice sguardo da cui si sentiva seguita come da un basso murmure d'amore e di pena? Sempre meno vi si rifiutava, finché da ultimo tutta la serata si ridusse per loro ad essere fatta del momento in cui si guardavano a vicenda. Vi pensavano finché soggiungeva e quando era giunto non pensavano più a nulla. Di una sola altra cosa Steven pareva ancora a quando curarsi, ed era di cantare. Era un modo di parlare a Maggie. Forse egli non era chiaramente consapevole d'esservi spinto dal segreto anelito di rafforzare la presa che aveva su di lei, ad onta di tutte le sue dichiarate risoluzioni. Sorvegliate i vostri discorsi, rendetevi conto di come siano guidati dai vostri propositi meno coscienti e capirete in Steven questa contraddizione. Philip Wakem veniva meno di frequente in visita, ma ogni tanto capitava per caso al pomeriggio e una volta si trovava lì ed erano seduti sul prato verso il tramonto quando Liu si disse: «Oh, ora che la storia delle visite di Maggie a Zia Gleg è terminata, desidero che ogni pomeriggio, finché rimane qui, andiamo a fare delle gite in barca. Per colpa di quelle noiose visite non è potuta andarci abbastanza ed è la cosa che le piace di più. Non è vero, Maggie?» «Più che ogni altro mezzo di locomozione, spero vorrete dire», corresse Philip, sorridendo a Maggie che stava sdraiata, un po' riversa, su una bassa sedia da giardino. «Altrimenti venderebbe la propria anima a quel barcaiolo fantasma che era sulla Floss, solo per essere portata in barca per l'eternità». «Vi piacerebbe di essere il suo barcaiolo?» disse Lucy. «Allora, se volete, potrete venire con noi a tenere un remo. Se invece che un fiume la Floss non fosse che un lago pacifico, potremmo fare a meno di qualunque compagno, perché Maggie sa remare magnificamente. Ma così com'è, siamo ridotti a chiedervi i servigi di paladini e di cavalieri che non paiono offrirli con troppa sollecitudine». Guardò con aria di scherzoso rimprovero Steven, che stava girovagando in lungo e in largo, e in quel momento cantava pianissimo in falsetto: «La sete che sorge dall'anima reclama divina bevanda». Egli non se ne diede per inteso, anzi, seguitò a rimanersene in disparte. Così aveva fatto di frequente durante le ultime visite di Philip. «Pare che abbiate poca voglia di andare sul fiume», disse Lucy quando egli venne a sedersi accanto a lei sulla panca. «Forse che adesso non vi aggrada più di remare?» «Oh, in barca detesto le compagnie numerose», disse quasi con irritazione. «Ci verrò quando non avrete altri». Lucy arrossì, temendo che Philip si offendesse. Era cosa affatto nuova che Steven parlasse a quel modo. Ma bisognava dire che negli ultimi tempi era stato poco bene. Anche Philip arrossì, ma non tanto per un senso di offesa personale, quanto per il vago sospetto che l'irritabilità di Steven avesse qualche rapporto con Maggie, la quale, mentre egli parlava, si era alzata dalla seggiola e si era diretta verso la siepe di Lauri per guardare il tramonto sul fiume. «Siccome Miss Dian non sapeva, invitandomi di escludere altre persone», disse Philip, «sono costretto a dispensarmi». «Oh, questo no, di certo», disse Lucy assai contrariata. «Desidero in modo speciale la vostra compagnia per domani. La marea sarà favorevole verso le 10:30. Avremo un paio d'ore di tempo delizioso per remare fino all'Acreth e poi tornare, prima che il sole si faccia troppo caldo. E che trovate a ridire contro una barca di 4 persone?» soggiunse volgendosi a Steven. «Contro le persone e nulla, solo contro il numero», disse Steven, che tornato in sé si sentiva alquanto vergognoso della propria sgarbatezza. «Dovessi votare per un quarto, quello saresti certamente tu, Philip, ma noi non vorremmo dividere il piacere di scortare le signorine. Ce lo prenderemmo alternatamente. Io ci andrò post domani». Questo incidente ebbe l'effetto di attrarre con rinnovata sollecitudine l'attenzione di Philip su Steven e Maggie. Se non che, quando rientrarono in casa, si propose di fare della musica, e siccome Mrs. Tulliver e Mr. Dean erano occupati alla loro partita, Maggie si sedette in disparte, presso la tavola dove c'erano i libri e il lavoro, senza peraltro far nulla, anzi, ascoltando distrattamente la musica. Steven aveva preso un duetto ed insisteva perché Lucy e Philip lo cantassero, era una cosa che aveva già fatto spesse volte. Ma quella sera Philip credeva indovinare un'intenzione sottintesa in ogni sguardo e in ogni parola di Steven e lo sorvegliava ansiosamente, pure irritandosi contro se medesimo per questo tenace sospetto. Perché Maggie non era riuscita a smentire ogni ragione di dubbio sul proprio conto? Eppure era la sincerità personificata, impossibile non credere alle sue parole e ai suoi sguardi. L'ultima volta che si erano parlati, in giardino. Steven poteva avere subito violentemente il fascino di lei, cosa c'era di più naturale? Ma Philip sentiva una certa bassezza nell'intromettersi in quello che doveva essere un doloroso segreto dell'amico, e tuttavia sorvegliava, scostandosi dal pianoforte, Steven era andato lentamente avvicinandosi alla tavola presso cui sedeva Maggie e sfogliava i giornali con un'aria di pura apatia. Poi si sedette con le spalle al pianoforte, puntando il gomito su un giornale e affondando la mano nei capelli, come fosse stato attratto da qualche trafiletto di cronaca locale del Corriere di Laceham. In realtà stava guardando Maggie, che non aveva fatto la minima attenzione al suo avvicinarsi. Quando Philip era presente, ella aveva sempre una maggior forza di resistenza, così come riesce meglio di trattenere la propria voce in un luogo che si sente consacrato. Ma alla fine udì la parola cara, proferita nel più dolce tono di dolorosa preghiera, come di un malato che chieda qualcosa che gli si sarebbe dovuta dare senza che la richiedesse. Non aveva mai più udita quella parola dall'incontro sul sentiero di Bassett, quando più e più volte essa era uscita dalle labbra di Steven involontariamente, quasi come un grido inarticolato. Philip non poté udirla, ma si era messo dal lato opposto del pianoforte e vide Maggie trasalire e arrossire, alzare per un momento gli occhi verso il viso di Steven, ma poi subito guardare con apprensione verso di lui. Ella non s'era potuta accorgere che Philip l'aveva osservata. Ma un accesso di vergogna all'idea di questa cosa fatta di nascosto la costrinse ad alzarsi dalla sedia ed andare presso la madre ad osservare la partita a carte. Philip tornò a casa poco dopo in uno stato di spaventoso dubbio mescolato di dolorosa certezza. Gli era impossibile ormai di difendersi dalla convinzione che una tal quale intesa dovesse correre tra Steven e Maggie. E per metà della notte i suoi nervi irritabili e impressionabili furono sconvolti fin quasi alla frenesia da quell'unico fatto angoscioso. Né poteva trovare una spiegazione che mettesse d'accordo quel fatto con le parole e gli atti di Maggie. Quando alla fine il bisogno di credere in lei ebbe ripreso l'abituale sopravvento, egli non tardò molto a immaginare la verità. Ella stava allottando, volontariamente esiliandosi. Era questa la chiave di quanto egli aveva veduto dal suo ritorno in poi. Ma, pure attraverso questa fiducia, altre probabilità si affacciavano che non dovevano essere perdute di vista, e la sua immaginazione ricostruì tutta intera la storia. Steven era pazzamente innamorato di lei, glielo doveva avere dichiarato, ella lo aveva respinto e si affrettava a fuggire. Ma avrebbe poi Steven rinunciato a lei, quando sapeva? E Philip se ne rendeva conto con lancinante disperazione che ella era ridotta alla distretta proprio dal sentimento che provava per lui? Quando venne il mattino, Philip stava troppo male per poter mantenere il proprio impegno di andare in barca. In una simile agitazione non poteva decidere nulla, ma soltanto oscillare tra propositi contraddittori. Prima pensava che avrebbe dovuto avere un colloquio con Maggie e supplicarla di confidarsi con lui, poi di nuovo diffidava del proprio intervento. Non si era sempre fidato di Maggie. Altra volta, nella sua giovanile inesperienza, ella aveva pronunziate certe parole, quanto bastava per renderlo odioso agli occhi di lei, se quelle parole continuavano ad esserle presenti come un impegno. E aveva il diritto di chiederle la confessione di sentimenti che la evidentemente intendeva tenergli celati. Non si sarebbe arrischiato a vederla finché non fosse sicuro di agire per puro interesse verso di lei e non per uno stimolo egoistico. Scrisse un breve biglietto a Steven e glielo fece recapitare di buon'ora dal domestico, dicendogli che non si sentiva abbastanza bene per tenere i propri impegni con Miss Dean. Voleva Steven portare le sue scuse e sostituirlo. Lucy aveva combinato un grazioso programma, per cui era stata contentissima che Steven avesse rifiutato di venire in barca. Aveva scoperto che quel mattino, alle 10, suo padre doveva andare a Lindham in carrozza. Lindham era proprio il luogo dove ella voleva recarsi per fare degli acquisti, importanti acquisti che non potevano in nessun modo venire differiti ad altra occasione, e la zia Tulliver doveva venirci anche lei, perché alcuni di quegli acquisti la riguardavano. Tu farai ugualmente la tua gita in barca, sai? Disse a Maggie quando uscirono insieme dalla sala della colazione per salire al piano di sopra. Philip sarà qui alle 10:30 e la mattinata è deliziosa. Via, non c'è da ribattere parola, cara anima in pena. A che serve che io sia la tua fatta madrina se ti opponi a tutti i miracoli che faccio per te? Non pensare al terribile cugino Tom. Puoi disobbedirgli un pochino. Maggie non insisté nelle proprie obiezioni. Fu quasi felice di quel programma perché dal ritrovarsi sola con Philip le sarebbe forse venuto un po' di forza e di calma, come a rivedere i luoghi di una vita più tranquilla, dove perfino le lotte erano riposi, in paragone con il quotidiano tumulto del presente. Si preparò per andare in barca e alle 10:30 era seduta nel salone ad aspettare. Il campanello della porta fu puntuale ed ella pensava con un piacere triste a un tempo e affettuoso alla sorpresa di Filippo nell'apprendere che sarebbe rimasto solo con lei, quando avvertì nell'anticamera un passo fermo e rapido che certamente non era quello di Philip. La porta si aperse ed entrò Stephen Guest. Al primo momento furono entrambi troppo agitati per potersi parlare, già che Stephen aveva saputo dal domestico che gli altri erano usciti. Maggie si era alzata e poi era tornata a sedere col cuore che le batteva violentemente, e Stephen, buttando il cappello e i guanti, venne a sedersi accanto a lei in silenzio. Ella pensava che Philip sarebbe giunto ben presto e con grande sforzo, perché tremava visibilmente, si levò per andare ad una sedia più distante. «Non verrà», disse Steven a bassa voce. «In barca sarò io ad accompagnarvi». «Oh, oh no, non possiamo andare», disse Maggie, tornando ad affondarsi nella sua sedia. «Lucy non se lo aspettava, si seccherà. Perché Philip non è venuto?» «Sta poco bene, mi ha pregato di venire in sua vece». «Lucy è andata a Lindham», disse Maggie togliendosi il berretto con dita frettolose e tremanti. «Noi non dobbiamo far la gita». «Benissimo», disse Steven come in sogno guardandola. Appoggiava il braccio sullo schienale della propria sedia. «Allora resteremo qui». Guardava dentro i profondi occhi di lei, lontani e misteriosi come la notte punteggiata di stelle, e prossimi tuttavia e timidamente innamorati. Maggie rimase perfettamente immobile. Forse per alcuni istanti, forse per alcuni minuti, finché il suo smarrito tremito fu cessato e un caldo rossore le comparve sulle gote. «L'uomo sta aspettando, ha preso i cuscini», e la disse. «Volete andare ad avvertirlo?» «Che gli devo dire?» domandò Steven quasi in un sussurro. Ora i suoi occhi erano intenti alle labbra di lei. Maggie non gli diede risposta. «Andiamo», mormorò Steven supplicando, mentre si levava e le porgeva la mano per far alzare anche lei. «Ben poco ci rimane da stare insieme». E andarono. Maggie si sentì condurre fra le rose fino in fondo al giardino, aiutata con ferma e tenera attenzione a salire sulla barca. Sentì che il cuscino e il mantello venivano accomodati ai suoi piedi e veniva aperto l'ombrellino di cui ella si era dimenticata. E tutto da quella presenza più forte che pareva trascinarla via, senza che ella facesse nulla di propria volontà. Scivolavano via rapidamente. Steven remava, aiutato dal ritrarsi dalla marea. Oltrepassarono gli alberi e le case di Tofton tra silenziosi prati, aprichi e pascoli colmi di una gioia naturale che pareva non avere rimproveri per la loro. La brezza del giorno giovine e intatto, il delizioso e ritmico tuffarsi dei remi, il canto interrotto di un uccello di passaggio, udito a quando come fosse solo il soverchio di una felicità traboccante. La dolce solitudine di due vite mescolate in una, da quello sguardo grave e costante che non teme di doversi abbassare. Che altro poteva sopravvivere nelle loro anime durante quella prima ora? Maggie si accorgeva appena e in confuso delle rive che stavano costeggiando e varcava i villaggi senza riconoscerli. Sapeva che ne dovevano passar parecchi avanti di raggiungere Lacrith, dove sempre si fermavano e lasciavano la barca. Soggetta com'era di continuo a crisi di distrazione, era abbastanza spiegabile che lasciasse passare inosservati i segni del suo cammino. Ma alla fine Steven, che aveva remato sempre più oziosamente, smise di vogare. Lasciò cadere i remi, incrociò le braccia e guardò giù nell'acqua come per osservare la velocità con cui la barca scivolava senza il suo aiuto. Questo improvviso mutamento riscosse Maggie. Guardò ai campi che si stendevano in lontananza, alle prossime rive, e sentì che le erano completamente nuovi. Una terribile apprensione si impossessò di lei. Oh, e Lacrith? Dove ci si doveva fermare? L'abbiamo già passato? Domandò voltandosi indietro per guardare se quel luogo fosse ancora in vista. Non si scorgeva nessun villaggio. Tornò a volgersi con uno sguardo di smarrita interrogazione a Steven. Questi seguitava a guardare l'acqua e disse in un tono strano, trasognato, assente, sì, di parecchio. Oh, che farò? Gridò Maggie in un accesso d'angoscia. Ci vorranno ore e ore per tornare a casa e Lucy, oh Dio, aiutami! Giunse le mani e scoppiò in un singhiozzo come una bimba atterrita. Non pensava che all'incontro con Lucy, a quel suo sguardo d'afflitta sorpresa e di dubbio, forse di giusta accusa. Steven andò a sedersi accanto a lei e abbassò dolcemente quelle mani congiunte. Maggie, le disse nel tono profondo di una tranquilla decisione, non torniamo a casa, finché più nessuno possa dividerci, finché non saremo sposati. L'insolito accento, le spaventose parole arrestarono i singhiozzi di Maggie. Ella rimase immobile, stupita, quasi che Steven fosse giunto a scoprire chissà quali nuove possibilità da cui ogni cosa sarebbe stata mutata e tolti di mezzo quei dolorosi eventi. Vedete, Maggie, come ogni cosa è accaduta senza che noi la cercassimo, a dispetto di tutti i nostri sforzi. Non avevamo mai pensato di poter ancora ritrovarci soli. Tutto è stato procurato da altri. Vedete come la marea ci porta via, lungi da tutti quegli impossibili vincoli di cui abbiamo tentato invano di tener conto. Ci porterà a Torby, dove potremo sbarcare e prendere una vettura per affrettarci a York e di là in Scozia, senza mai fermarci neppure per un attimo, finché non saremo avvinti l'uno all'altra, così che soltanto la morte ci possa disgiungere. È l'unica cosa ragionevole, cara, l'unico mezzo per sfuggire a questa disperata perplessità. Tutto ha cospirato per indicarcelo. Noi, da parte nostra, non avevamo macchinato nulla, non avevamo pensato a nulla. Steven parlava con accento di profonda e ardente perorazione. E Maggie ascoltava, passando dal suo interdetto stupore alla brama di poter credere che era stata la marea a far tutto e che la poteva lasciarsi scivolare giù per la viva, silenziosa corrente senza più lottare. Ma tra queste seducenti persuasioni si profilava terribile l'ombra dei passati pensieri, ed ecco l'orrore che l'attimo di fatale accecamento fosse ormai imminente su di lei. Le suscitò un moto di rabbiosa resistenza contro Steven. Lasciatemi! Gli disse con voce agitata, fulminandolo di uno sguardo di sdegno e tentando di liberare le proprie mani. Voi avete voluto togliermi ogni possibilità di scelta. Lo sapevate che ci stavamo troppo allontanando. Avete osato approfittare della mia assenza. Non è da uomo l'avermi messa in una simile situazione. Punto da questo rimprovero, egli le abbandonò le mani, tornò al suo posto di prima e incrociò le braccia, preso da una sorta di disperazione di fronte alle difficoltà che le parole di Maggie gli avevano affacciate. Se ella non consentiva a proseguire, non gli rimaneva che maledirsi per il difficile passo a cui l'aveva condotta. Ma la cosa insopportabile era quel rimprovero, che la sentisse indegna la sua condotta, questo era peggio che perderla. Finalmente, in tono di rabbia repressa, le disse: Non m'ero accorto di aver oltrepassato Lacrith finché non siamo giunti al villaggio successivo, e allora m'è venuta l'idea che potevamo proseguire. Non ho scuse, avrei dovuto dirvelo. C'è di che farmi odiare dal momento che voi non mi amate, come io vi amo, al punto di rendervi indifferente ogni altra cosa. Debbo fermare la barca e tentare di farvi scendere qui? Dirò a Lucy che ero pazzo e che voi mi odiate, così sarete per sempre liberata da me. Se io mi sono condotto in modo imperdonabile verso di voi, nessuno potrà farvene biasimo. Maggie era paralizzata. Più facile resistere alle suppliche di Steven che non al quadro di ciò che gli avrebbe sofferto proprio mentre lei sarebbe stata giustificata. Più facile sfuggire ai suoi sguardi di tenerezza che a quelli di irritata disperazione da cui si sentiva confinare in uno stato di egoistico isolamento. Nel nuovo modo di sentire da lui ispiratole, Le ragioni che avevano agito sulla sua coscienza parevano tramutarsi in motivi di puro interesse personale. Placatasi nei suoi occhi la fiamma di sdegno, ella cominciò a guardarlo con timida accettazione. Lo aveva rimproverato di essere incorso in un torto irreparabile, proprio lei, che era stata così debole. Quasi che io non sentissi quanto voi quello che vi è successo, gli disse, con un rimprovero d'altro genere, il rimprovero dell'amore, che reclama più profonda fiducia. Questo arrendersi all'idea del soffrire di Steven era più fatale di ogni altro abbandono, perché meno facile da distinguersi da quel senso degli altrui diritti, che era il fondamento morale della resistenza di Maggie. Egli sentì tutto l'addolcirsi dello sguardo di lei e della sua voce. Era il cielo che si riapriva. Le si riavvicinò, le prese la mano, appoggiando il gomito sul bordo della barca, senza dir nulla. Temeva di pronunciare altre parole, temeva di fare altri movimenti che potessero provocare in lei un nuovo rimprovero o ripulsa. La vita era sospesa al suo consentimento, tutto il resto era disperata, confusa, soffocante angoscia.